Aspetta a vedere se non sto uscendo qua. Che antenna ci abbiamo? Vediamo se aumenta. Ah, ecco, adesso sto uscendo, prima non stavo uscendo. Allora, mi ascoltate o no? Ti ascolto, bisogna vedere, Sandro sta facendo, manovrando qualcosa, ecco perché sta staccando, provando, capito? Non ho capito. Allora lasciamolo provare, lasciamolo fare. Andiamo a travagliare, a marcare. Da parroggero. Coraggio, non mi ascolti. Ah, pensavo non mi ascoltassi. Vediamo un po' adesso se è migliorata la situazione. ascoltarti meglio. Ma no, proprio, però adesso ho capito ora, sono riuscito a tirarti prima, no, adesso in quest'ultimo passaggio passo passo, ma ti ho tirato fuori, diciamo che c'è molto QRM, c'è parecchio QRM, però cazzo dai usi ragazzo, senza antenna mi devi ascoltare due ammiemi, perché io un giorno con Gianni ho parlato senza antenna, con un'antennino, te la ricordi già, con un'antennino in cameretta mi ha appoggiato, tenendo di macchina, una base magnetica sopra il letto, sopra la branda, dentro casa, e riuscivo a parlare con Gianni, non ricordi già? Magnetica dentro casa, non fuori, non nella finestra, fuori appoggiata al letto, quindi un giorno stavo provando, attaccando il coso in casa, un baracchino, una cosa, se sentivo a lui, ha detto, ci ha provato a chiamarlo, e ti dico la verità, c'aveva una base magnetica, un'antennina di cavolo, un'antennina, una, sai che cos'era? Una verga da un metro, un'antennina di quelle nere rigide, cazzo, un'antennina di quelle lì, cazzo, sopra una base magnetica, quell'antennina me l'aveva data a coso, Sandro Tiglio di Porto Torres, cazzo, con quell'antennina sopra la base magnetica, dentro cameretta, e riuscivo a parlare, per dirti, ecco, per dirti, cazzo, con l'antenna sopra il tetto, cazzo, qua, se io salgo a Augilo, in camion, passo in camion come mi è successo di passare lì e mudro da lì, da Usilo, allora non mi ci sentono, in Campidano, cioè, arrivo a Cagliari, io un giorno ero lì a Usilo, sono uscito da Usilo verso l'Urbi, dopo il campo sportivo da un'azienda a scaricare, da quello che doveva fare un mini casificio lì a Usilo, su quella strada lì l'ha fatto. Beh, ho parlato con Macchiaretto, con Cagliari, dal camion, e li sentivo e mi ascoltavano, a Macchiaretto. A Cagliari sono arrivato da lì. Vabbè, la situazione era buona, era ottima, e quindi riuscivi a arrivare così, poi è stato sempre un'altra situazione, non ci vuole solo, come dice l'intero, non ci vuole anche un po' di sensazione, evidentemente tu anche io, aspetta ora, adesso te la faccio sentire. Ecco, adesso è la situazione, non prima. Questa è la radio però, è l'eco della radio, è l'eco dell'amplificazione della radio, c'è la radio, è il baracchino, c'era questa amplificazione, no. Gli ho fatto una modifichetta io, hai capito, lo posso regolare, però lasciandolo così basso sicuramente la cosa è migliore, non si sente molto quell'eco, capito? Leggermente amplificato e basta, capito? moglie già la regolazione, però io l'ho abbassato da 0, da 1 a 20, capito? Per non esagerare troppo. Un attimino di fianco, riprendi con Gianni.